Isabel Allende. Nata in Perù in una famiglia dell'alta borghesia e cresciuta in Cile, a seguito del golpe di Pinochet che fece uccidere il presidente Salvador Allende con cui era imparentata, si rifugiò negli Stati Uniti. La sua vita non ha bisogno di presentazioni perché lei stessa ne ha parlato in centinaia di interviste e l'ha raccontata in tutti i suoi romanzi. Si è sposata per la terza volta a 77 anni e al momento della lettura di questa presentazione ne ha 80. Dice di essere stata una pessima madre e nonna, sempre occupata nella sua carriera. I figli, ai quali lei ha lasciato molta autonomia, la seguivano nei suoi spostamenti e divennero autosufficienti fin da bambini. Del resto anche lei, madre, lavoratrice intellettuale, era figlia di un diplomatico e seguì la famiglia, abituandosi fin da piccola a vivere in diversi paesi. Quando i suoi genitori si separarono, lei tornò in Cile con la mamma, a vivere nella grande casa del nonno, casa a cui è ispirato il suo romanzo di esordio La casa degli spiriti. Quella del nomadismo dunque è un'attitudine acquisita fin da piccola. Isabel ha avuto un rapporto stretto con la morte che ha dichiarato di non temere assolutamente. Ha infatti accompagnato al transito finale tanto sua madre Francisca quanto sua figlia Paola. E avendo aiutato a far nascere la nipotina Nicole, figlia di suo figlio, ha raccontato di aver scoperto che i due momenti sono simili e che hanno entrambi una qualità misteriosa e sacra. Alla nipotina, appena in grado di parlare, Isabel chiedeva di raccontarle da dove veniva prima che se lo dimenticasse. Questo ci ricorda che un'altra grande antenata, Pamela Lyndon Travers, nella sua Mary Poppins, parlando della neonata ultima sorellina Banks, racconta che la piccola ancora ricordava da dove era venuta. Dopo la morte della figlia, Isabel creò in sua memoria la Fundación Isabel Allende, oggi gestita dalla nuora, che ha la finalità di dare voce e potere alle donne, alle bambine e ai bambini di tutto il mondo. In Afghanistan ancora vengono vendute spose bambine di 5 anni, racconta in un'intervista rilasciata in occasione del suo 80° compleanno. Siamo ben lontane dalla parità di diritti di genere. In metà pianeta non esiste nemmeno la più elementare protezione dei diritti umani. La politica e la situazione delle donne sono sempre protagoniste dei suoi romanzi, che si servono delle vicende personali, delle protagoniste come pretesto per raccontare le vicende storiche dei paesi. Ora che vive negli Stati Uniti, ha dichiarato di riscontrare quasi la stessa situazione di odio e violenza che c'era in Cile quando lei dovette scapparne. Nel suo penultimo romanzo, Donne dell'anima mia, scritto durante il lockdown, insieme ad altri due libri, ha raccontato di far parte di un cerchio di donne chiamate le sorelle del perenne disordine o anche il cerchio delle streghe, che da 30 anni si riuniscono ogni due mercoledì per parlare di ciò che accade. Come in ogni cerchio di donne che si rispetti, si ascolta solo, in silenzio e con rispetto, e nessuna commenta. Queste donne l'hanno aiutata a superare la perdita della figlia. Anche lei, donna socialmente e politicamente impegnata, morta neanche trentenne. E dice, in ogni cerchio si lancia anche un tema spirituale, riguardo alle paure, per esempio, o al tema della vecchiaia, visto che sono tutte più o meno ottantenni. Ciò che unisce tutte le donne è una spiritualità femminina non filtrata dalla lente patriarcale, sostiene Isabel, una spiritualità sciamanico-magica che nei suoi romanzi è sempre la protagonista e che secondo lei deve essere sviluppata. In Donne dell'anima mia, Isabel parla della sorellanza e del femminismo e lo fa dopo una vita e una trentina di romanzi dedicati proprio alle donne, dove le eroine sono sempre femmine. Isabel si dichiara tutt'oggi femminista. Esiste l'uguaglianza? Le chiedono. No, risponde lei senza esitare. Ancora viviamo in una società totalmente patriarcale e finché non smonteremo questo macchinario immenso non ne usciremo. 60 anni fa, dice, in Cile c'erano le femministe che lottavano per il diritto al lavoro, a uguale paga, all'istruzione e per un uguale codice morale per donne e uomini. Oggi si lotta ancora per lo stesso motivo. Alle ragazze di oggi, prosegue arrabbiandosi, il femminismo non piace perché non è sexy. Ma Isabella afferma, senza ombra di dubbio, che nessuna di loro rinuncerebbe neanche a uno solo dei diritti duramente conquistati con la lotta dalle loro madri femministe. E ci tiene a precisare che le femministe non lottano contro gli uomini, ma contro il patriarcato, intendendo con esso, come noi della Scuola delle Donne abbiamo più volte spiegato, una forma pensiero politica e sociale ed economica androcentrica, basata sul conflitto e sulla competizione di cui anche gli uomini sono vittime. Isabella ha scritto alla madre ogni giorno per decenni e ha conservato 24.000 lettere in varie casse nella cantina della sua casa. Sua madre era una donna obbediente al marito e silenziata dalla modalità patriarcale che le insegnava a essere una signorina per bene e che le rimproverava il suo carattere ribelle e rumoroso. Ma le rivoluzioni, dice Isabel, devono far rumore. Tradotta in 40 lingue, uno stile magnetico, magico, umoristico e vivace, così tipico delle penne latine, quali la nicaragüense Gioconda Belli o le messicane Ángeles Mastretta e Laura Esquivel, tutte presenti sul nostro canale, ha spesso usato come materiale le storie della sua famiglia, risalendo anche molto indietro nel tempo, convinta com'è che se non si memorizza la propria storia si scompare. Oggi, compiuti 80 anni, sta ancora scrivendo, sostiene che l'ispirazione non le manca e neppure l'energia, e racconta di aver sfruttato il lockdown per lavorare e per fare la luna di miele col suo terzo marito. Una donna decisamente ispirata e sostenuta dalla grande madre. A conclusione di questa presentazione, non possiamo dimenticare la cilena Gabriela Mistral, Nobel per la letteratura, protofemminista, così attenta all'infanzia da aver dedicato ad essa migliaia di poesie e la sua opera instancabile di educatrice. Un'eredità, quella di Gabriela, evidentemente ben riposta nella Fundación Isabel Allende. La Scuola delle Donne è lieta di offrirvi la lettura del romanzo di esordio di Isabella Allende, La casa degli spiriti, Feltrinelli Editore, traduzione di Angelo Morino e Sonia Piloto di Castri. Da Devana, buon ascolto!